Secondo noi sono state trascurate le reali necessità del settore, come tra l'altro evidenziato da ciò che è presente proprio all'interno del documento, che però purtroppo non è stato condiviso nemmeno con le lavoratrici e i lavoratori. Il piano è ancora una bozza, però allora mi chiedo perché presentare una bozza in pompa magna alla cittadinanza. All'interno però ci sono vari accenni, per esempio al ruolo che avrà Bologna Welcome all'interno del piano, nel senso che quello che c'è scritto nella bozza è che il documento prefigura un affidamento massiccio dei servizi museali appunto alla Fondazione Bologna Welcome, un po' sulla scorta di quello che è successo con Palazzo Pepoli, quindi bookshop, caffetterie, biglietterie, ma ci sono anche cose diciamo molto più preoccupanti come i pacchetti promozionali con le visite esclusive e i catering per rendere le location dei musei più attraenti per eventi speciali, tra cui faccio un esempio tra tutti, l'affitto dell'intera Villa delle Rose per eventi privati e matrimoni. C'è un'altra questione che voi sollevate da tempo, che è quella del personale. Quella per noi, lavoratrici e lavoratori del settore, è la questione cruciale. Tra l'altro non la solleviamo solo noi, ma sono anni che il sindaco promette assunzioni, era anche stato fatto un concorso che però a fronte di neanche un quarto delle assunzioni promesse e necessarie è stato fatto scadere proprio qualche mese fa. Ed è la ragione per cui le lavoratrici e i lavoratori riuniti in assemblea hanno deciso lo stato di agitazione. La novità in questo caso è che nel piano sarebbe presente proprio una dicitura in cui si scrive che sarebbero necessarie per la sopravvivenza dei musei tra le 39 e le 74 nuove assunzioni, che sono proprio in linea effettivamente con il reale fabbisogno. Purtroppo però nel momento in cui al termine di questa presentazione si è chiesto all'assessore, quindi alla parte politica presente, se c'erano impegni in tal senso, è stato detto che sì, era stato scritto nero su bianco, però a fronte della chiusura del bando nessun impegno reale è stato preso su questo, che è uno dei punti cruciali per noi, ma non l'unico ovviamente. Quindi ad esempio non c'è questo impegno nella parte economico-finanziaria? Parrebbe di no. Ci sono delle incognite sulle assunzioni del personale, invece a budget sono messe risorse per la creazione di un board strategico? Questo è l'altro lato della medaglia, cioè, a fronte di tutta una serie di progetti sperimentali a costo zero dai nomi molto impegnativi come Digital Lab, Library, Fab Lab, Editaton, Digital Diplomacy, Design for All, Pretext, Board Giovani, eccetera, eccetera, che però quando poi si va a vedere il piano stesso dice che la maggior parte di questi progetti presentano piani di spesa molto poco significativi, qui sto citando in termini assoluti, quindi una politica di attività culturali a costo zero quasi, stiamo parlando di qualche migliaio di euro, il piano prevede la creazione e un investimento di ben più di 700.000 euro in 5 anni per la creazione di un board strategico per la gestione del piano, composto oltre che dai direttori, da funzionari interni, anche da esperti esterni, il cui però ruolo e impatto restano poco chiari. Si è capito che dovrebbero occuparsi del fundraising, che è uno dei punti maggiormente segnalati anche nella presentazione, ma anche lì sulle cifre noi abbiamo ben più di una perplessità. Un altro nodo che sollevate è quello della didattica, che finora ha coinvolto gratuitamente 150.000 studenti insomma di Bologna. La didattica è, detto da tutti, da sempre un fiore all'occhiello delle attività dei musei. Nel piano però, a fronte di un annunciato aumento delle risorse, adesso non mi ricordo, del 20% o qualcosa del genere, in realtà sempre nella bozza del piano sarebbe prevista una riduzione di ben 1.850.000 euro tra il 2025 e un 2027, tutto questo nonostante l'incremento delle visite ai musei. Tutto questo si ripercuoterebbe in particolare su un taglio, ma più che taglio bisognerebbe dire un azzeramento per i servizi didattici, che sempre dalle tabelle nella bozza passerebbero dagli 843.000 euro del 2025, tutti garantiti da fondi Nippon a soli 38.000 euro nel 2027, stiamo parlando di un taglio del 95,5%, e l'ovvia conseguenza è l'azzeramento dei dipartimenti educativi, e l'ulteriore conseguenza è che appunto l'accesso a cultura e al patrimonio si vuole garantito, perché se non ci sono soldi ovviamente è un servizio che va messo a tariffa, anche questo sulla scorta della polemica sull'aumento delle tariffe del trasporto locale, e sarà garantito solo alle scuole e alle famiglie che se lo potranno permettere. Questo è abbastanza evidente, dai numeri questo si evince. Ma l'amministrazione conta di rimpinguare queste risorse con fondi nazionali, però voi dite non sono stabili. Il problema è proprio questo: noi già nel 2020, quando l'allora assessore alla cultura, cioè l'attuale sindaco, decise di spostare tutti i dipartimenti educativi da fondi comunali a fondi PON, che hanno appunto natura nazionale ed europea, noi gli facemmo presente, noi come COBAS, che era rischioso, perché appunto non avendo natura stabile i fondi PON arrivano, ma poi possono anche finire. E cosa succede quando finiscono? All'epoca la risposta, sto parlando di 5 anni fa, fu che in questo caso si sarebbero aumentate addirittura le risorse per potenziare appunto quello che è un fiore all'occhiello. Poi invece nel piano, finendo i fondi PON nel giugno 2026, appunto finiti quelli, finisce il finanziamento alla didattica. Questa cosa è assolutamente inaccettabile per quanto ci riguarda. E nonostante le ripetute richieste di poter visionare appunto la bozza definitiva del piano, l'amministrazione comunale ha deciso di non rispondere e ha deciso di non aprire un confronto con le lavoratrici, i lavoratori, un confronto serio, non una presentazione di un'oretta e mezza. Prendiamo atto purtroppo di questa mancanza di dialogo e, di fronte alle prospettive, chiamiamole incerte, ecco, per il futuro del settore museali, noi ribadiamo l'impegno deciso dalle lavoratrici e lavoratori che si riunirono in assemblea già a luglio dell'anno scorso di proclamare lo stato di agitazione assieme a tutta la RSU. Ricordo che è un impegno preso da tutte le sigle sindacali riunite in assemblea, non solo per il settore musei civici ma per tutto il Dipartimento Cultura, perché sempre nel piano c'è scritto che questo modello è il modello che parte dai musei ma che si vorrebbe applicare a tutto il settore cultura, quindi ad esempio penso alle biblioteche, e addirittura espanderlo come metodo a tutto il comune di Bologna. Per noi è un precedente, un'idea, una strategia molto preoccupante, molto pericolosa.